borse tentano il rimbalzo. Agguato in una missione in Burundi, uccisi durante una rapina un cooperante italiano e una suora croata, ferita un'altra suora italiana. È rottura fra Pisapia e l'assessore Boeri, che ha rimesso le deleghe nelle mani del sindaco. Oggi pomeriggio l'incontro fra i comuni del milanese per decidere cosa fare contro l'emergenza smog. La bacchettata di Riccardo Muti e i colleghi dai microfoni di Radio 24 sputano sull'Italia e risiedono all'estero per non pagare le tasse. Non intendevo attaccare nessuno, precisa oggi, ma far notare un malcostume italiano. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In apertura, l'avete sentito dai titoli, la pagina economica, a cominciare con l'analisi dell'OCSE. Taglio delle stime per tutta l'area euro, più contenuta la revisione per l'anno in corso, calo molto più marcato invece per il prossimo anno, dal 2 allo 0,2%, un taglio che colpisce prima tra tutti la Germania, che frena da un più 2,5% stimato solo pochi mesi fa a un più 0,6%. Bisogna agire con urgenza per evitare il peggio, dicono a Parigi, l'imperativo è bloccare il rischio contagio. Per l'Italia l'anno prossimo sarà recessione, la crescita secondo l'OCSE tornerà nel 2013, anno in cui Roma riuscirà a sostanzialmente a centrare il pareggio di bilancio. E se è vero che l'austerità tenderà a frenare un'economia già debole, per l'Italia è necessario assicurare la sostenibilità dei conti pubblici. In ogni caso il nuovo esecutivo ha il giusto approccio, secondo Parigi, un piano molto ambizioso, quello di Monti, basato sul risanamento, crescita ed equità. Gli allarmi però continuano a ripetersi e il riferimento all'Italia è evidente. Questa mattina Moody's ha descritto così il contesto: la crisi del debito dell'area euro e delle banche mette a rischio i rating dei paesi. A questo punto le probabilità di default multipli non sono più irrilevanti. Uno scenario che aveva spinto qualcuno a parlare di un prossimo intervento dell'FMI a sostegno dell'Italia con 600 miliardi di dollari. Secca la smentita di Washington. Valeria De Rosa, Radio 24, il Sole 24 Ore. Intanto oggi partono bene le borse europee. Il punto con Deborah Rosciani. Sì, la settimana è partita decisamente bene per i listini del vecchio continente, che addirittura segnano dei rialzi che sono intorno ai tre punti e mezzo. Particolarmente favorita la piazza francese, più 3,87% sul CAC 40, Francoforte più 3,30%, Londra più tranquilla più 2%, Milano più 3,42% in questo momento sul FTSE MIB. In una giornata di netto fortissimo riscatto per il settore bancario, per il settore industriale, anche se adesso il miglior titolo a Milano è Saipem, che guadagna oltre il 5%. Cosa sta determinando tutta questa euforia? Difficile dirlo, forse il possibile accordo tra Francia e Germania, club ristretto all'interno del quale forse l'Italia potrebbe rientrare per rivedere i trattati europei molto velocemente, così come era stato fatto per i trattati di Schengen, e tutto questo per portare alle dovute riforme europee di cui c'è bisogno, appunto, per proteggere l'Europa da questo domino della crisi del debito sovrano. Questo possibile accordo, appunto, stamattina fa ritornare ampiamente gli acquisti sul mercato azionario e ridà un po' di serenità anche a quello obbligazionario, perché lo spread fra BTP e Bund è ridisceso sotto i 500 punti base, stamattina viaggiava intorno ai 4,70-4,80. Niente di particolarmente brillante, ma è pur sempre un segnale il fatto che si sia ritornati sotto i 500 punti. Milano, dicevo, fa crescere soprattutto i titoli bancari, e l'euro brinda anche a questa giornata di euforia, ritornando abbondantemente sopra quota 1,33, portandosi vicino a 1,34. Tutto questo nonostante Moody's stamattina presto, una delle più importanti agenzie di rating, ha detto che in assenza di misure in grado di stabilizzare le condizioni del mercato nel breve periodo, i rischi di credito continueranno a crescere e in prospettiva si potrebbe arrivare, ha detto addirittura, a default multipli in Europa. Speriamo che questo scenario non si delinei, però intanto Moody's l'ha detto, è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. E di crisi ha parlato questa mattina il capo dello Stato a Roma, inaugurando la nuova stazione Tiburtina. Per sferzare il paese ha scelto l'inaugurazione della nuova stazione Tiburtina di Roma, dalla quale partiranno i treni ad alta velocità. Per il presidente della Repubblica Napolitano, anche in un momento di difficoltà, l'Italia è in grado di dare prova delle sue capacità. Credo che si stia dando, con la realizzazione e inaugurazione di questa grande opera, una prova, una di quelle prove che abbiamo in questo momento critico bisogno di dare all'Europa, al mondo, e di dare a noi stessi della straordinaria capacità di innovazione e di realizzazione dell'Italia. Ciò conta assai più di tanti altri fattori ed è uno dei punti di saldezza del nostro tessuto nazionale unitario. Parole quelle di Napolitano pronunciate nel corso di una cerimonia caratterizzata anche da contestazioni e tensioni. A protestare sono stati familiari di vittime di incidenti ferroviari e lavoratori di Trenitalia che rischiano il licenziamento. In piazza anche un gruppo di manifestanti del movimento Notav che ha cercato di aggirare la zona rossa ma è stato bloccato dalle forze dell'ordine. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E se domani il Presidente del Consiglio Monti sarà di nuovo in Europa, sul fronte di politica interna, ultime ore di lavoro per il nuovo governo in vista delle nomine dei sottosegretari. In diretta da Roma, Elisabetta Fiorito. Tra oggi e domani la stretta finale sui sottosegretari, domani l'ok del Consiglio dei Ministri, solo tecnici per il no del PDL ai politici, si fa il nome di Vittorio Grilli all'economia, direttore generale del Tesoro, proprio per guidare la squadra economica in vista delle misure da varare entro il 5 dicembre. Sempre all'economia anche Vittorio Ceriani che guida una commissione sulla riforma fiscale. Invece Mario Ciacca, attualmente a DDB, sono affiliata di Intesa alle infrastrutture, Carlo Della Ringa, ex collaboratore di Biagi al welfare, e la CGIL smentisce stamattina un veto da parte della FIOM. Il segretario della FIOM Maurizio Landini spera però che ci sia discontinuità tra questo governo e quelli precedenti. Angelo Rughetti, segretario generale dell'ANCI, andrebbe all'interno. Dal PDL nessun veto, anche se l'emergenza non è i sottosegretari, ribadisce il segretario Angelino Alfano, anzi se li fanno 3 mesi si risparmia 1 mese di stipendio. E con questa frase di Alfano è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Uccisi in Burundi un cooperante italiano e una suora croata, Francesco Bazzani e suor Lucrezia Manic. Un'altra missionaria, suor Carla Brianza, è stata invece ferita alle mani. Sentiamo Gianfranco Belgrano dell'agenzia di stampa Misna al microfono di Valentina Furlanetto. I malviventi si sono introdotti nell'abitazione delle suore, hanno aperto il fuoco contro una sorella originaria della Croazia, suor Lucrezia Manic. Si sono allontanati portando con loro Francesco Bazzani, che era il volontario italiano ucciso, e suor Carla Brianza, che è stata ferita alle mani, è già stata operata e sta, insomma, le cui condizioni stanno migliorando. Per quello che voi sapete, si tratta di malviventi comuni che volevano rapinarli, oppure si tratta di qualcos'altro, di un attacco volto proprio a colpire dei cristiani? Sì. In questo momento possiamo dire che si è trattato di un'aggressione a scopo di rapina, questo ci stanno dicendo le nostre fonti in Burundi. Ovviamente il fatto avviene in un momento in cui il paese vive un clima di insicurezza generale, che si è acuito lo scorso anno quando ci furono delle elezioni boicottate dall'opposizione. E di recente ci sono stati altri casi di certo i malviventi sono riusciti a far perdere le loro tracce e ci sono delle indagini in corso. E sono stati liberati questa notte 3 cittadini italiani fermati fra venerdì e sabato al Cairo in piazza Tahrir. L'accusa per loro era di incendio doloso, loro invece hanno sostenuto di aver difeso dalle violenze una ragazza palestinese. La liberazione dei 3 italiani nel primo giorno di voto in Egitto, sentiamo dunque che aria si respira questa mattina e lo facciamo collegandoci in diretta dal Cairo con il nostro Ugo Tramballi. Direi gioiosa, sono davanti a un seggio a Zamalek, un quartiere centrale del Cairo, ci sarà una coda di almeno 400 metri, ogni 10 elettori in fila 9 sono donne e di queste 9 5 non sono velate. C'è grande eccitazione, chi ha già votato dice che dentro è tutto regolare, non c'è lo stesso clima che si registrava nelle altre finte elezioni, nessuno teme la frode, tutti sono convinti che siano elezioni pulite. E naturalmente questo è un quartiere ricco e colto del Cairo, nei quartieri più poveri forse la situazione è diversa, tra poco andrò a vedere. Com'è la situazione invece a Piazza Tahrir questa mattina? Piazza Tahrir è semivuota, ma come sempre succede, perché oggi non è un giorno di manifestazione, però è sempre presidiata. È stata venduta la finzione che Piazza Tahrir sia contraria alle elezioni. Piazza Tahrir in realtà i giovani sono contrari o chiedono semplicemente che i militari si levino di mezzo il più presto possibile, non tutti in Egitto ne sono d'accordo, ma quanto alle elezioni molti giovani sono già andati a votare, come mi diceva adesso una candidata appena uscita anche lei dal seggio, tutto questo è stato possibile grazie a Piazza Tahrir. Grazie Ugo. Grazie a te. Grazie dunque ad Ugo Tramballi del Sole 24 Ore. Noi torniamo invece a Milano, perché ha ripreso questa mattina il processo Mills. In diretta dal Palazzo di Giustizia di Milano, Raffaella Calandra. Sì, da circa due ore il viso della teste chiave di questo processo è sullo schermo dell'aula, qui in collegamento da Londra, ma solo tra poco, e non è ancora certo, David Mills in persona, l'avvocato inglese e ideatore del sistema offshore della Fininvest, dovrebbe cominciare a parlare. Questioni procedurali e il difficile tentativo di far conciliare il diritto italiano e quello inglese sono all'origine del ritardo della deposizione dell'ex coimputato di Mills insieme a Silvio Berlusconi, già condannato a 4 anni a Milano per corruzione in atti giudiziari, il reato andato poi in prescrizione. Mills ha infatti chiesto attraverso i suoi difensori delucidazioni e in un certo senso rassicurazioni sul rischio di una nuova incriminazione a suo carico per falsa testimonianza. L'accusa qui infatti era proprio quella di aver detto il falso nei processi Oliberian e Guardia di Finanza a carico di Silvio Berlusconi e per questo di aver ricevuto $600,000. In sostanza ora la Corte dovrà stabilire in quale veste ascoltare Mills, se come teste semplice con l'obbligo cioè di dire la verità o teste assistito con la possibilità di non rispondere. E dall'interrogatorio di oggi di Mills dipenderà anche la scelta dell'imputato Silvio Berlusconi, seduto qui in prima fila accanto ai suoi difensori, per lunedì prossimo, se rendere cioè dichiarazioni spontanee come ha detto nelle ultime volte oppure decidere un interrogatorio, decidere di non parlare affatto. Vi racconteremo come andrà a finire questa lunga giornata dalla Tribunale di Milano. Grazie Raffaella Calandra. Sempre a Milano va avanti l'inchiesta sul San Raffaele. Dalle conversazioni con Niccolò Pollari, allora direttore dei servizi segreti militari, alle macchinazioni per sfrattare un vicino a cui il San Raffaele aveva affittato dei terreni. Tra il 2005 e il 2006 le microspie nell'ufficio di Don Verzé registrano le sue conversazioni. Con Pollari, Don Verzé discute tra l'altro dell'amico comune Silvio Berlusconi e delle sue difficoltà politiche. Con Mario Cal, il manager suicida, conversa invece di una grana giuridica da sistemare con Formigoni e la regione Lombardia. Dalle intercettazioni emergono i tanti tentativi di ottenere l'aiuto della Guardia di Finanza per sfrattare i Lomazzi, titolari di un regolare contratto di affitto su terreni del San Raffaele, adibiti a campi da tennis e calcetto. Allo stesso Pollari, Don Verzé chiede un aiuto per mandare le Fiamme Gialle a fare un controllo all'attività sportiva, in modo che lo stesso Lomazzi, messo alle strette, possa cedere una parte del terreno per costruire un residence per studenti. Don Verzé, evidenziano le microspie, non esclude anche un sabotaggio al quadro elettrico, così da lasciare i campi al buio. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. They pluck in thousands strong. È morto all'età di 84 anni il regista britannico Ken Russell, figura controversa e discussa nel panorama cinematografico, diresse I Diavoli, sulle possedute di Ludon e sui Roghi. Notissimo anche Tommy, opera rock nata dal lavoro del complesso degli Who, che state sentendo peraltro in sottofondo, e Stati di allucinazione, Donne in amore e La casa Russia, tratto da Le Carré. Secondo l'Ocse l'Italia è in recessione nel 2012, Napolitano dice dobbiamo dare prova all'Europa, al mondo di cosa siamo capaci di fare, le borse intanto tentano il rimbalzo, spread sotto i 500 punti. Agguato in una missione in Burundi, uccisi durante una rapina un cooperante italiano, una suora croata ferita, un'altra suora italiana. Di tutto questo abbiamo parlato nella prima parte di GR24, ripartiamo invece dall'emergenza smog a Milano. Oggi sarebbe dovuto partire il blocco delle auto in centro, poi c'è stata la marcia indietro perché l'ATM, l'azienda di trasporto pubblico, non è in grado di garantire un potenziamento del servizio. Allora, cosa fare? 10 anni, tanto ci vorrà se subito si prenderanno misure sufficienti per far abbassare il livello di polveri sottili a Milano. Tabelle degli esperti alla mano, si capisce quanto vada al di là dell'emergenza di questi giorni il problema dell'aria milanese. La giunta Pisapia aveva approvato una delibera drastica il 18 ottobre scorso che imponeva l'alta alla circolazione dopo 14 giorni di sforamento. Delibera però sospesa sabato in fretta e furia, in vista di un vertice invece fissato per le 16 di oggi in provincia, con tutti gli altri comuni dell'Interland. Nessun braccio di ferro, dice il sindaco, e conferma il presidente della provincia, Guido Podestà, a Radio 24. Sindaco Pisapia. Pisapia si è dichiarato d'accordo sul fatto di un metodo che deve essere un metodo che coinvolga tutti. Ma se si ostenta ottimismo, quel che è certo è che una decisione dovrà arrivare, che siano, come si ipotizza, le targhe alterne, sia che si pensi a blocchi più o meno estesi. Non è una situazione che si possa accettare così, e le previsioni del tempo ci dicono che purtroppo ancora per giorni questo sarà. E le decisioni dovranno essere strutturali, quali lo sapremo, si spera, questa sera. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è un bel problema per la giunta Pisapia, che in campagna elettorale l'aveva promesso: affronterò il problema smog con decisione. Invece siamo qua ancora ad aggiornare gli sforamenti dei limiti giorno per giorno. E a proposito di grane per Pisapia, stamattina l'atteso epilogo nella querela fra il sindaco di Milano e l'assessore alla cultura Stefano Boeri. Boeri ha infatti rimesso le deleghe nelle mani di Pisapia. L'ultimo strappo, quello sulla collocazione del museo di arte contemporanea, ma le crepe nella compagine di Pisapia erano già iniziate prima, su Expo e non solo. Siamo in collegamento in diretta con Basilio Rizzo del gruppo consigliare Sinistra per Pisapia, Federazione della Sinistra, storico consigliere comunale di Milano e oggi presidente del Consiglio Comunale. Buongiorno Rizzo. Buongiorno. Allora, la sensazione è che questa rottura forse sembrava inevitabile, no? Forse nasce addirittura da lontano, da quelle primarie che vide vincere Pisapia. È possibile che Boeri non l'abbia mai digerita quella sconfitta? Ma io penso che non sia così, e penso anche che non sia vero che ci siano crepe, come è stato detto, ma giornalisticamente si può dire, nella giunta Pisapia, perché mi pare che ci sia compattezza nella giunta e i problemi sono nei confronti dell'assessore Boeri e delle sue scelte. Io penso che noi dobbiamo trovare una soluzione, questo è il mio pensiero, e penso che si lavorerà per questo, che salvaguardi i beni preziosi di questa giunta, che sono la solidarietà della coalizione, la fermezza nei contenuti e la guida di Pisapia, perché credo che questo sia anche stato un valore aggiunto di tutta la campagna elettorale. Però valorizzare tutte le esperienze che ci sono. Io continuo a pensare che anche Boeri sia una risorsa, si tratta di trovare un equilibrio nei rapporti di giunta e di trovare una collaborazione anche con il Consiglio Comunale. Ecco Rizzo, si è infranto in qualche modo un sogno, quello del popolo arancione, quello che ha festeggiato in piazza, quello che ha fatto campagna elettorale per le strade, insomma, lei dice di crepa non si può parlare, però di fatto è il primo assessore che ha chiesto di andarsene. Io spero che non sia così, spero che la soluzione possa essere ritrovata attraverso un riassestamento delle deleghe all'interno della giunta, e penso che tutti sentano la responsabilità, sia Pisapia sia Boeri, di non deludere appunto questo popolo. Io penso che la garanzia è ancora l'eco di quella vittoria, di quella partecipazione, di quella presenza di tutti e della solidale partecipazione della coalizione, che potrà garantire anche a superare questa fase di difficoltà. Io penso che sia di gran lunga prevalente la fiducia che i cittadini hanno nei confronti di questa giunta. Grazie a Basilio Rizzo. E noi parliamo invece di una intervista che ha fatto molto discutere qui su Radio 24, l'intervista del maestro Riccardo Muti, che ai nostri microfoni ha detto insomma, i miei colleghi cantanti, direttori di orchestra parlano tanto, sputano sull'Italia, poi però vanno all'estero per non pagare le tasse. Oggi la precisazione ce la racconta Armando Torno. Riccardo Muti, nella trasmissione Musica Maestro, andata in onda ieri sera alle 21 su Radio 24, una trasmissione che verrà replicata questa notte, ha semplicemente dichiarato di avere la residenza fiscale in Italia e di pagare le tasse in questo paese. Il maestro ha aggiunto che è imbarazzato per coloro che, avendo una residenza fiscale all'estero, fanno i moralisti in Italia. Non intendeva attaccare o bacchettare persone specifiche, né altri enti, né colleghi, ma semplicemente far notare un malcostume italiano che riguarda sì direttori, cantanti, registi, ma anche sportivi, imprenditori, finanzieri. In particolare, Muti ricordava di aver vinto due premi, uno in Svezia e uno in Spagna. Quello in Svezia, ricordo che è un Nobel della musica, che consta di ben $1 milione. E il maestro Muti ha fatto notare che è felice di restituire al suo paese quello che la cultura e lo spirito italiano gli hanno dato a suo tempo. Ed ora il nostro appuntamento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Affitti

E in chiusura l'ultimo appuntamento con la settimana della cultura d'impresa. Oggi parliamo della Casa dell'Energia di Milano. Il presidente della Fondazione AEM, Marcello Di Capua, al microfono di Adriana Fracchia. La Casa dell'Energia nasce nei primi anni 90 con una ristrutturazione di una sottostazione di distribuzione dell'energia di AEM, una grande sottostazione che è in Piazza Po, in zona Tortona. È un museo aperto, ma è un museo vivo anche, dove si trovano delle macchine esperienziali che mettono le persone nella condizione di proprio visualizzare e partecipare degli esperimenti fisici, ovviamente in piccolo, in scala, di creazione dell'energia. Il senso di questa mostra è quello di coltivare la memoria industriale, ma coltivare la memoria per poi avere anche un approccio culturale diretto sulla comprensione di come questi fatti, che si pensano abbastanza scontati e non lo sono affatto, abbiano poi un impatto diretto sulla nostra vita e sull'economia. Un saluto da Maria Piera Ceci, prossimo GR24 alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.